Ciao, ciao, bambina, un bacio ancora, e poi per sempre ti perderò come una fiaba. L'amore passa, c'era una volta, poi non c'è più. Our raindrops trembling upon your face, dear, or are they teardrops for the love we knew? Ciao, ciao, bambina, my heart is calling while rain is falling. I cry with you. Trovare parole nuove, ma piove, piove sul nostro amore, while rain is falling.